Ben, tu hai un giardino proprio tuo? No, non ho nemmeno una casa. Non sono sposato. Vivo in una stanza nella casa di Martin, il portiere all'ingresso del parco. Ma se tu ne avessi uno, insiste Mary, che cosa ci pianteresti? Oh, cavoli, patate, cipolle. Ma se tu volessi metterci dei fiori? Beh, allora bulbi per la maggior parte e anche altri fiori, ma solo di quelli profumati. Però a me piacciono soprattutto le rose. Il viso di Mary si illuminò. Davvero? Ti piacciono tanto le rose? Sì, tanto, rispose dopo un attimo di silenzio, occupato a estirpare un'erbaccia. Ho imparato ad amarle da una giovane signora di cui ero giardiniere. A lei piacevano moltissimo. Ne aveva di tutti i colori, di tutti i tipi nel suo giardino. Mi ha insegnato lei a conoscerle e a curarle. Pensa, una volta l'ho vista baciarne una appena sbocciata. Immerse la vanga nella terra, la spinse con forza, rivoltò due o tre zolle e poi borbottò. Ma questo era tanto tempo fa. Perché sei venuto via da quella signora? Chiese Mary. Non sono andato via. È andata via lei. E dove è andata? In cielo, rispose lui senza guardare Mary, ma lavorando con forza la terra, almeno se è vero quello che dice il parroco. E che cosa è successo alle sue rose? Chiese Mary, sempre più interessata. Oh, sono rimaste là nel giardino, abbandonate a se stesse. Saranno tutte morte? Mary non riusciva più a nascondere la sua impazienza di sapere. Le piante di rose muoiono se uno non le cura? Beh, siccome io le amavo tanto e volevo anche tanto bene alla signora, una o due volte l'anno sono sempre andato a dare una guardatina a quelle piante, a potarle un po', a lavorare la terra intorno alle radici. Alcune sono inselvatichite adesso perché non ho più fatto innesti. Posso dedicare solo poco tempo a questo lavoro. Per fortuna la terra era bella, fertile, grassa e così qualcuno ha resistito bene. Ma dimmi, quando si vedono le piante senza foglie, con i rami color grigio marroncino, secchi, come si fa a sapere se sono vive o morte? Chiese ancora sempre più ansiosa Mary. Aspetta che arrivi la primavera, aspetta che il sole e la pioggia le nutrano e vedrai. Cosa? Che cosa vedrò? Incalzò Mary, abbandonando ogni progetto di prudenza. Guarda lungo i rami, e se trovi dei piccoli rigonfiamenti marroncini disseminati qua e là, tienili d'occhio e va a controllarli dopo che è piovuto. Sai quella tiepida pioggerellina di primavera? Si interruppe guardandola con curiosità. Ma perché ti interessi tanto alle rose stamattina? Come mai vuoi sapere tante cose sulle rose? Mary si sentì avvampare. Aveva paura di tradirsi rispondendo. Io volevo giocare. Volevo far finta di avere un giardino mio, balbettò. Io sono sempre sola qui, non ho niente da fare, io non ho nessuno per giocarci insieme. Beh, questo è vero, disse Ben, non staccandole gli occhi di dosso, è vero. Tu non hai nessuno. Lo disse con un'espressione così particolare che Mary ebbe quasi l'impressione che fosse addolorato per lei. Mary non aveva mai provato un senso di simpatia o di pietà verso se stessa. Si era spesso arrabbiata ed era stata imbronciata e nervosa perché lei non amava gli altri e così non amava neanche se stessa, benché fosse molto egoista. Ma gli egoisti, in effetti, sono persone incapaci di amore. Mary, però, negli ultimi tempi, aveva cominciato a notare qualcosa di nuovo in lei e non solo il fatto dei calzini stretti. Rimase ancora un po' a parlare con Ben. Il vecchio rispose a tutte le domande senza dimostrare impazienza e senza piantarla lì tutta un tratto, come aveva fatto altre volte. Quando vai la prossima volta a vedere quelle rose? Gli chiese Mary a un tratto. Non so, rispose lui. Purtroppo i miei reumatismi mi rendono difficile arrivare fin là perché mi bloccano le giunture. Cambiò improvvisamente di umore. Senti ragazzina, se vuoi un consiglio, non fare tante domande. Riesci a farmi perdere la pazienza con le tue domande. Va a giocare dove vuoi, ma lasciami in pace, ho altro da fare adesso. Mary sciolse dal braccio la corda da saltare che vi era rimasta arrotolata tutta la mattina e si incamminò lentamente verso il viale esterno. Che strana persona era Ben, come cambiava di umore rapidamente. Eppure le piaceva, sì, le piaceva proprio. Le piaceva parlare con lui e com'era contenta quando riusciva a farlo parlare. E poi, com'era bravo nel suo mestiere, doveva sapere tutto, proprio tutto sulle piante e sui fiori, tutto. Si avviò per un sentierino bordato di piante di alloro che correva per un tratto lungo il muro di cinta del giardino segreto e terminava con un cancello che metteva in un boschetto nel parco. Pensò di arrivare saltando alla corda fino al cancello. Una volta giunta lì, sentì provenire dal bosco un rumore strano, un suono basso, come un fischio modulato e ripetuto, che le giungeva non capiva bene da dove. Aprì i battenti che erano tenuti insieme da un paletto facilmente sfilabile e si inoltrò nel parco verso quel suono. Una stranissima, perché inaspettata visione la lasciò quasi senza fiato. Sotto un albero, al quale appoggiava la schiena, stava seduto un ragazzino. Aveva fra le mani uno strumento fatto di canne. Strisciandolo davanti alla bocca ne traeva quei suoni che avevano incuriosito Mary. Poteva avere 12-13 anni. Aveva un viso piuttosto rotondo, con due guance rosse, due occhi tondi e azzurri azzurri e un naso un po' a patata. Mary lo osservò attentamente e rimase impressionata dal colore degli occhi. Non ne aveva mai visti di così celesti. Accanto a lui, due timidi coniglietti selvatici brucavano l'erba mentre i loro nasini tremavano convulsamente. Più in là un fagiano sporgeva da un cespuglio, il suo collo dalle penne verdi azzurre cangianti, e sul tronco dell'albero al quale quel ragazzo era appoggiato c'era uno scoiattolino con la sua bella coda morbida. Tutti sembravano stare lì ad ascoltarlo e lui suonava, suonava il suo zufolo. Quando si accorse di Mary, alzò appena una mano, smise di suonare, ma parlò con una voce bassa che aveva lo stesso tono della musichetta di prima. «Non muoverti», disse. «Potresti impaurirli». Mary rimase immobile. Lui cominciò ad alzarsi da terra, ma si muoveva così lentamente che quasi sembrava non muoversi. Alla fine fu in piedi. Lo scoiattolo per primo svanì fra i rami dell'albero, il fagiano si ritirò nel cespuglio, i coniglietti rizzarono tutti i peli del loro mantello e cominciarono ad allontanarsi saltando, ma nessuno di loro sembrava impaurito. Erano come persone che se ne vanno dopo uno spettacolo. «Io sono Deacon», si presentò il ragazzo, «e tu non puoi essere che Mary». Anche Mary aveva pensato dentro di sé, «quello non può essere che Deacon». Chi altro avrebbe potuto incantare gli animali così? Lei aveva visto far qualcosa di simile con i serpenti in India, ma solo con i serpenti e da uomini grandi che lo facevano per guadagnare dei soldi. Sai, mi sono alzato piano piano per non spaventarli, spiegò lui. Bisogna sempre muoversi adagio e parlare basso per non spaventarli. Le parlava senza il minimo imbarazzo, come se si fossero conosciuti da sempre. L'unica esperienza con i ragazzi era stata quella con Basil, per Mary. Deacon era molto diverso da quel bambino dispettoso che aveva inventato per lei il nomignolo di sempre no, e Mary non sapeva come parlargli. «Hai ricevuto la lettera di Marta?» gli chiese infine con un tono freddo, senza sorridere o mostrarsi contenta di vederlo. Lui scosse la testa in avanti, accennando di sì, e Mary notò che aveva i capelli di un rosso ramato, tutti ricci come un agnellino. «Sono venuto per quello?» Si chinò per raccogliere qualcosa che aveva appoggiato vicino all'albero nel luogo dove stava seduto prima. Ho portato gli attrezzi per lavorare la terra, la vanga, la zappa, il rastrello. Sono buoni, resistenti, anche se in formato piccolo. Poi ho comprato le sementi e la padrona del negozio, viste tutte queste spese, mi ha regalato due bustine di semi, una di papaveri bianchi e una di fiordalisi azzurri. Guardiamo le sementi? Chiese Mary. La sua voce non aveva intonazioni arroganti, era della stessa semplicità di quella di Deacon e ugualmente cordiale. «Subito, sediamoci qui», propose lui. Tirò fuori dalla tasca della giacca un involto fatto alla belle meglio e lo aprì. C'erano dentro tanti pacchettini di semi e sopra ognuno c'era una figurina che rappresentava i fiori che sarebbero nati da quelle sementi. Ci sono un sacco di resede, di papaveri, spiegò Deacon. Ho comprato le resede perché sono molto profumate e hanno dei bei fiori gialli. Nascono dovunque tu le pianti e lo stesso vale per i papaveri. Si interruppe udendo il canto di un uccello. C'è un petirosso che ci sta chiamando. Dov'è? Il cinguettio veniva da un cespuglio di agrifoglio, dalle allegre bacche rosse. Mary pensò, sta a vedere che è lui, e chiese curiosa, ma sei sicuro che stia chiamando proprio noi? Oh sì, disse il ragazzo con grande sicurezza, sta chiamando qualcuno di cui è amico, ed è qui vicino a noi, anche se non lo vedo. Senti, sta dicendo, sono qui, guardatemi, ho voglia di chiacchierare un po' con voi. Mary gli indicò il cespuglio. Ah, eccolo lì, è tuo? No, è di Ben. Però credo che un pochino conosca anche me. E come se ti conosce? Disse Deacon parlando ancora a voce bassa. E gli piaci? Sta parlando di te adesso. Tra un minuto saprò un sacco di cose che ti riguardano. Si avvicinò pian piano al cespuglio con gli stessi lenti movimenti che Mary aveva notato al mattino ed emise un gorgheggio assai simile a quello del petirosso. L'uccellino ascoltò per qualche istante in silenzio, poi rispose proprio come se avesse capito la domanda. È proprio un tuo amico fedele, bisbigliò Deacon. Davvero? Esclamò Mary tutta contenta. Mi vuol bene allora. Non verrebbe così vicino, altrimenti gli uccelli capiscono un sacco di cose e sanno riconoscere gli amici dai nemici meglio degli uomini. Senti, adesso ti sta chiamando e dice: Non vedi che sono qua? Sembrava davvero che dicesse così, da come si muoveva. Si agitava e guardava Mary. Ma tu, Deacon, capisci tutto quello che dicono gli uccelli? La bocca del ragazzo, già grande, si allargò tanto in un sorriso beato che parve invadere tutto il viso. Io credo di sì, e anche loro lo credono. Sto sempre con loro nella brughiera. Li vedo rompere il guscio dell'uovo quando nascono, poi mettere le penne, poi imparare a volare, a cantare, a cercarsi il cibo. A volte mi sembra di essere uno di loro, altre volte penso invece di essere una volpe, un coniglio, uno scoiattolo, uno scarabeo. Non so come mai, ma è così. Rise, tornò verso il ceppo dove era ancora seduta Mary e riprese in mano le bustine di semi. Ricominciò a spiegare come si doveva fare per seminarli, per farli crescere bene. Poi a un tratto propose: Senti, invece che star qui a parlare tanto, perché non andiamo a seminarli direttamente? Se vedi come si fa, impari meglio. Andiamo, dove vuoi seminarli? Mary strinse fra di loro le sue mani sottili fino a sentir male. Non sapeva cosa rispondere. Tacque per un po'. Sentiva le sue guance bruciare e la gola secca. Non hai un angolino di aiuola per te? Non te l'hanno ancora data? Chiese lui per venirle in aiuto, visto che si era accorto del suo imbarazzo. Oh, non so niente dei ragazzi. Ci si può fidare dei maschi? Sanno serbare un segreto? Guarda, è un segreto grandissimo. Non so cosa mi succederebbe se venisse scoperto. Credo che morirei dal dolore, terminò con aria sinceramente drammatica. Deacon la guardava con un'espressione appunto interrogativo sul volto. Si grattò la testa due o tre volte, ma poi il sorriso lo illuminò tutto di nuovo e disse con fare allegro: Ma Mary, io vivo di segreti. Se io non sapessi mantenere i segreti, tu pensi che le volpi continuerebbero a lasciarmi vedere i loro piccoli appena nati? E mi lascerebbero soli con loro? E gli uccelli mi lascerebbero stare vicino al nido quando i pulcini escono dal guscio? Ah, stai tranquilla, so tenere i segreti io. Mary non aveva mai pensato prima di essere capace di un gesto simile, ma le venne spontaneo di allungare una mano e tirarlo per la manica della giacca. Senti, disse, io ce l'ho un giardino, ma l'ho rubato. Non è mio, non è neanche di nessuno, però nessuno lo vuole, nessuno lo cura più perché nessuno ci entra da tanto tempo. Forse è anche già tutto morto là dentro, io non lo so. Mentre andava avanti a parlare, cominciava a sentirsi a disagio davanti a quei due rotondi occhi celesti che la fissavano con interesse e meraviglia. Sì, l'ho rubato, continuò cercando di mettere nelle sue parole un tono aggressivo di difesa. E con questo? Nessuno lo vuole, nessuno lo cura più. E poi a me non importa niente di quello che possono pensare gli altri. Ma nessuno può portarmelo via adesso. Io mi interesso a lui, gli altri no. Gli altri lo hanno abbandonato, non si sono curati di sapere cosa succedeva alle piante. Eppure dovevano sapere che stava morendo. Lo lasciano morire, lo fanno morire così, chiuso, sprangato. A questo punto non poté più resistere, scoppiò in singhiozzi, nascondendosi il viso con le mani. Beh, beh, beh, balbettò Dico, non riuscendo a dire altro. Era meravigliato e commosso allo stesso tempo e avrebbe voluto consolare Mary, ma non sapeva come. Non ho mai niente da fare, sono sola tutto il giorno, non ho niente di mio. Quel giardino l'ho cercato io, l'ho trovato da sola, ci sono entrata da sola, è mio, come è del Petirosso. Chi potrebbe portarvi al giardino, al Petirosso? Dov'è questo giardino? Chiese Dico, una voce molto bassa. Vieni, te lo mostrerò, disse Mary alzandosi di scatto. Aveva ripreso tutta la sua decisione di principessina indiana, tutta la forza di cui era capace per ottenere quello che voleva senza parlare, senza esitazioni. Ma non era presenza la sua, c'era dentro di lei un sentimento di protezione e di affetto per qualcosa che ancora lei stessa non capiva bene, ma che le dava la forza di difendere il suo giardino segreto. Percorsero il vialetto con le piante di alloro. Poi si inoltrarono per il viale che costeggiava il muro coperto di edera. Deacon la seguiva, camminando leggero per non fare rumore. Mary si fermò, sollevò l'edera nel punto dove era più folta. Lui si fermò con il volto pieno di ansia e curiosità. Mary aprì la porta con la sua chiave e tutti e due scivolarono dentro. Si fermarono a guardare lo spettacolo che si offriva ai loro occhi. Mary fece un gesto circolare con la mano. Eccolo, disse, è questo il giardino segreto. Io sono l'unica persona al mondo a non volere che muoia. Deacon volse i suoi occhi azzurri tutti intorno e poi ancora e ancora. Beh, mormorò, è un posto veramente strano. Strano ma bello. Accidenti, sai, Mary, mi sembra una di quelle cose che si vedono a volte nei sogni. Capitolo 11. Il nido della lodola. Per 2 o 3 minuti Deacon rimase fermo a guardarsi intorno. Poi cominciò a muoversi con grande leggerezza e destrezza, spinto da una curiosità ancora, se possibile, maggiore di quella che aveva spinto Mary nella sua prima visita al giardino. I suoi occhi erano attratti da 1000 particolari, gli alberi grigi con quelle svolazzanti mantelle di rosai rampicanti, l'intreccio folto dei rami che stavano abbarbicati al muro di cinta e si stendevano anche sull'erba, i pergolati con i loro sedili di pietra e i grandi vasi ricoperti di muschio e licheni. Non avrei mai pensato di riuscire a vederlo, disse quasi bisbigliando. Ma allora tu sapevi che c'era? Chiese Mary. Aveva parlato con un tono di voce normale e lui le fece un segno. Dobbiamo parlare piano, disse, altrimenti qualcuno ci può sentire e può venire qui a vedere che cosa stiamo facendo. Oh, come ho fatto a non pensarci! Esclamò Mary spaventata, mettendosi una mano davanti alla bocca e alzando spalle, quasi volesse incassarci dentro la testa. Poi, stavolta sottovoce, ripeté la domanda con altre parole. Ne avevi sentito parlare? Deacon fece di sì con la testa. Marta una sera raccontò di un giardino dove nessuno andava mai. La cosa mi colpì molto, tanto che varie volte ho tentato di immaginarmelo questo giardino. Si interruppe, girò ancora coi suoi rotondi occhi azzurri tutti intorno, quasi volesse confrontare nella memoria l'aspetto immaginato con quello reale. Chissà quanti nidi ci saranno qui a primavera, concluse poi. Se un uccello facesse il nido fra quei rami intricati dei rosai, sarebbe al sicuro perché nessuno potrebbe avvicinarsi anche se entrasse nel giardino. Ma qui non entra nessuno. Mi chiedo come mai tutti gli uccelli della brughiera non vengano a fare il nido qui. Mary posò di nuovo senza accorgersene la mano sul braccio di Deacon. Ma qui sbocceranno delle rose? Chiese bisbigliando. Sai riconoscere se questi rosai sono vivi? Io ho paura che purtroppo siano quasi tutti morti. Eh no, rispose lui, non sono tutti morti. Guarda qui. Si accostò all'albero più vicino, un albero vecchio, vecchio, dal tronco quasi interamente coperto di licheni, che sosteneva un intrico di rami e rametti di rosai rampicanti. Tolse dalla tasca un grosso temperino e aprì una delle lame. C'è molta roba da tagliare qui dentro. Ci sono molti alberi vecchi, ma vedi che hanno buttato fuori nuovi virgulti l'anno scorso? Questo, per esempio. Mise la mano su un giovane arbusto che era di un colore marroncino verde, anziché secco e grigio come gli altri. Mary lo toccò quasi timidamente, piena di gioia e di rispetto insieme. Questo, chiese, è vivo, questo, è proprio vivo? Dico un sorrise con tutta la sua bocca larga. Come sei viva tu, come sono vispo io, affermò. E Mary si ricordò che Marta le aveva detto che vispo, in dialetto dello Yorkshire, significa vivo. Oh, come sono felice che sia vispo, esclamò lei sempre sottovoce. Vorrei che tutti fossero vispissimi. Senti, proviamo a fare un giro del giardino e vediamo se ci riesce di contare quanti ce n'è di sì e quanti di no. Era eccitata e felice, e anche Deacon partecipava alla sua gioia. Andarono di albero in albero, di cespuglio in cespuglio. Lui aveva in mano il suo temperino e le faceva osservare cose sconosciute e meravigliose. Vedi, questi erano i più deboli e sono morti, diceva tagliando dei rami secchi. Questi invece erano più forti e non solo non sono morti, ma si sono moltiplicati. Guarda, guarda qui che meraviglia. Afferrò e trasse a sé un lungo ramo grigio che sembrava secco. Uno potrebbe pensare che è morto, ma io penso di no. Non è morto fino alle radici. Sta a vedere. Ora lo taglio bene in basso. Si inginocchiò e tagliò il ramo vicino alla terra. Ecco, cosa ti avevo detto? C'è ancora del verde in questo ramo. Vuol dire che è vivo, guarda. Mary si era inginocchiata per seguire da vicino quello che Deacon stava facendo. Quando si vede anche solo un po' di verde e c'è un po' di umido, come qui dentro, questo ramo, vuol dire che la pianta è vispa. Se invece il ramo è secco, si spezza facilmente e all'interno è tutto marrone o grigio e non c'è più niente da fare. Alzò il viso e il braccio verso la cascata di rami senza foglie che sovrastava le loro teste e disse con un sorriso: Sarà come una fontana che zampilla rose qui quest'estate. Continuarono a ispezionare il loro regno. Deacon era molto robusto e con le sue mani abituate ai lavori dei campi non aveva paura di farsi male, afferrando i rami. Sapeva riconoscere i secchi dai vivi e con il temperino tagliava via quelli morti e poi li ammonticchiava tutti da una parte. In una mezz'oretta Mary aveva imparato anche lei a distinguerli e tutte le volte che Deacon tagliava un ramo e appariva quel segnino di verde e di linfa, lei non poteva trattenere un'esclamazione di gioia. La vanga, la zappetta e il rastrello furono messi in funzione. Deacon le mostrò come doveva usare il rastrello, mentre lui, con la vanga, scavava intorno alle radici e rivoltava le zolle di terra per lasciarvi penetrare l'aria. Stavano lavorando alacremente intorno al rosaio più grande quando qualcosa attirò l'attenzione del ragazzo e gli fece mettere un'esclamazione di sorpresa. Guarda, disse, qui c'è stato qualcuno e abbastanza di recente. Mostrò a Mary uno spazio pulito di terra intorno ai germogli che stavano spuntando. Sono stata io, spiegò Mary. Oh, si congratulò lui. Pensavo che tu non avessi nessuna idea di cosa vuol dire giardinaggio. Infatti è così, affermò Mary. Ma quando li ho visti così teneri e delicati in mezzo a tutti quegli sterpi, mi è sembrato che facessero fatica a respirare. Così ho cercato di ripulire un po' di spazio intorno a loro. Io non so nemmeno che fiori spunteranno da queste piante. Deacon si inginocchiò vicino alle piantine. Hai fatto proprio un buon lavoro, disse. Un giardiniere non avrebbe fatto meglio. Faranno come i fagioli di Giovannino e l'oracolo, sai la storia, vero? Guarda, questi sono crocus, questi bucaneve, questi narcisi. Si avviò verso un altro gruppo di germogli e questi sono giunchiglie, tromboncini. Oh, quando fioriranno tutti sarà una meraviglia. Qui. Osservò tutte le aiuole che Mary aveva ripulito. Sei stata proprio brava, disse, a fare tanto lavoro tutto da sola e senza attrezzi. Sono abbastanza forte adesso, replicò lei, e ogni giorno che passa mi sento sempre meglio. Prima ero sempre stanca e non avevo mai voglia di fare niente. Invece, anche dopo aver lavorato qui tutto il giorno, non mi sono sentita stanca per niente. Mi piace molto sentire l'odore della terra smossa. Anche a me piace molto, convenne lui. E sai cos'è un'altra cosa che mi piace tanto? Andare nella brughiera quando piove, starmene seduto accanto a un cespuglio e ascoltare le gocce di pioggia che cadono sulle foglie. Allora c'è un profumo così fresco nell'aria e anche una bellissima musica con tutte quelle gocce. Ma non hai mai preso un raffreddore? Chiese Mary guardandolo con curiosità. Non aveva mai passato tanto tempo vicino a un ragazzo senza subire o fare dispetti. Gli dico era allegro, simpatico e per niente dispettoso. Era bello stare a parlare con lui. Oh no, no, grazie, replicò Deacon ridendo. Niente raffreddori. Sono stato abituato ad andare fuori con qualunque tempo. È tipo i conigli selvatici, sai? Sono proprio come un albero, come un animale selvatico. Loro non si raffreddano mai. Mentre parlavano, continuavano a camminare. Si fermavano, zappavano o tagliavano i rami secchi. Accidenti se c'è da fare qui, commentò lui ad un certo punto, guardandosi intorno. Ma l'espressione non era di disappunto, anzi, era di gioia. Ma tu verrai ad aiutarmi, vero? Io potrò zappare, togliere le erbacce, insomma, fare tutto quello che mi insegnerai, Deacon. Verrò tutti i giorni, promise lui, sole o pioggia. È troppo divertente l'idea di avere un posto come questo. Pensa, far rivivere un giardino che sembrava morto. Se tu mi aiuterai, se mi insegnerai come fare per farlo tornare a vivere, io non so cosa farò. Terminò la frase con sincero dispiacere perché non aveva trovato cosa promettere, ma non sapeva in realtà cosa avrebbe potuto fare per restituire l'enorme regalo che Deacon le faceva aiutandola. Te lo dico io allora, rise lui. Pensa a star bene, a essere un po' più allegra, a non sentirti più sola. Vedrai, ci sarà tanto da fare e ci divertiremo moltissimo. Ma senti, Mary, non vorrai mica che venga fuori un giardino tutto lindo, pulito, accurato, senza un filo fuori posto, vero? A me sembra così bello come ora, con questi rami che si arrampicano sugli alberi e vanno in tutte le direzioni, senza essere obbligati a seguire un disegno preciso fatto dal capogiardiniere. Faremo pulizia, sì, metteremo a posto varie cose, ma gli lasceremo questo aspetto di fiaba che ha, vero? Oh sì, certo, sono d'accordo, approvò lei. Questo è un giardino speciale, è un giardino segreto. Deacon si grattò la testa, un po' perplesso. E sì, questo è un giardino segreto, ma sai una cosa? Ho l'impressione che durante questi 10 anni non ci sia entrato solo il Petirosso. A parte quello che mi hai detto di aver fatto tu, mi sembra che qualcuno le abbia curate un po' queste piante. Ma no, non è possibile, la porta era chiusa, la chiave sottoterra. Sì, è vero. Si inginocchiarono per mettere i semi nella terra che avevano smosso con la vanga e il rastrello. Campassi 1000 anni, pensò Mary fra sé, non dimenticherò mai questa mattina della mia vita, la mattina in cui ho incontrato Deacon e in cui il giardino ha cominciato a rivivere. Le tornò in mente tutto a un tratto il viso di Basil, il ragazzino peste con il quale aveva giocato, o meglio, litigato, negli ultimi tristissimi giorni del suo soggiorno in India. Le tornarono in mente le boccacce, la cantilena. Signorina, sempre no, che giardino bello hai fatto. Se lo tiri per la coda, dice bello anche il gatto. Signorina, sempre no. Sentì il bisogno di raccontare tutto a Deacon. Così diverso, così gentile con lei. Deacon rise. Ma come si fa, disse poi, a perdere il tempo a dirsi cattiverie se si ha la fortuna di poter stare in un giardino e guardare tante cose belle e lavorare per far crescere meglio le piante? Ci dovevano pure essere nidi fra i rami di quegli alberi e uccelli che cantavano, e perché poi tirare la coda al gatto? Doveva essere un po' stupidino questo Basil. Deacon, esclamò Mary. Marta aveva ragione quando diceva che non si può fare a meno di esserti amici. Sei la quinta persona, incluso il Petirosso, che mi piace da quando sono qui. Non avrei mai pensato di poter avere 5 amici. 5 persone a cui voler bene. Deacon si era inginocchiato e si sedette sui talloni, come faceva Marta quando puliva il caminetto. La sua faccia, a punto interrogativo, era sudata e rossa per la fatica, ma sorridente e allegra. 5 soli? Chiese curioso. Uno sono io e gli altri 4? Tua mamma, Marta, il Petirosso e Ben, rispose Mary contando sulle dita. Dicon scappò da ridere così forte che dovette nascondere il viso nella piega del braccio. Senti, disse poi, probabilmente io ti devo sembrare una specie di marziano, tanto sono diverso da te e da tutti i ragazzi che devi aver incontrato finora. Ma cosa devo dire io di te? Sei addirittura incredibile. Mary si schiarì la voce, poi coraggiosamente chiese, cercando di parlare con l'accento dello Yorkshire come lui, perché in India la cosa più gentile che si potesse fare a un indigeno era rivolgergli la parola nel suo dialetto. Incredibile va anche bene, disse. Ma ti piaccio o no? Ma sì, rispose lui sincero, ti trovo straordinaria. E guardando il pettirosso che era arrivato e svolazzava intorno a loro, vedi? Anche lui è dello stesso parere. Oh, come sono contenta! Esclamò Mary. Sono proprio contenta! Ripresero a lavorare con più entusiasmo ancora e con maggior gioia. Quando il grande orologio del cortile batté i 12 colpi del mezzogiorno, Mary sobbalzò, sorpresa e dispiaciuta. È già così tardi? Si chiese. Devo scappare o farò tardi per il pranzo? Anche tu devi andare, no? Il mio pranzo è facile da trasportare, rise lui. Ci pensa la mamma a mettermi qualcosa in tasca quando esco. Tirò sulla giacca che aveva appoggiato sull'erba secca e trasse da una tasca un pacchetto avvolto in un tovagliolo a quadri bianchi e blu. Lo aprì. C'erano due grosse fette di pane con qualcosa nel mezzo. Il più delle volte è solo pane, spiegò lui. Ma oggi c'è anche una fetta di bacon. Sono fortunato con il mio pranzo. Mary pensò che ci voleva un bel coraggio a chiamare pranzo quella roba lì, ma Deacon sembrava proprio contento. Tu vai, vai a rimpinzarti, Mary. Io ho intenzione di lavorare un altro po' prima di andare a casa. Si sedette con la schiena appoggiata ad un albero. Chiamerò il pettirosso a farmi compagnia, disse. Così gli darò un po' del mio bacon. Non sai come piace ogni tanto un po' di grasso ai pettirossi. Mary non sapeva decidersi ad andare via. Pensava, forse è stato tutto un sogno. Forse se vado via, quando torno non trovo più né il giardino né Deacon. Finalmente si decise e si avviò verso la porta. Ma giunta a metà strada tornò indietro. Deacon, supplicò, qualunque cosa accada, promettimi che non parlerai mai a nessuno di questo giardino. Se tu fossi una mamma allodola, disse lui con la gotta gonfia per il grosso boccone che gli riempiva la bocca, e mi mostrassi dov'è il tuo nido, pensi che lo direi a qualcuno? No, non sono il tipo. Stai tranquilla, mamma allodola, non ti tradirò. E Mary se ne andò tranquilla e sicura perché sapeva che era vero. Deacon non l'avrebbe tradita mai.